avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà. Questa mattina vi tiro un po' su perché il recupero crediti mi rendo conto che è stato pesante, anche se questa mattina pure parlerò di un tentativo disperato di recupero di un credito. Si tratta del credito amoroso, si tratta della ricerca disperata del pelo perduto, si tratta del piagnone amoroso. Chi è il piagnone amoroso? Il piagnone amoroso è quel tipo di uomo che non accetta di essere accannato da una donna. Le donne possono accannarti per un'infinità di ragioni, che si sono stufate di te, perché hanno trovato un altro meglio di te, perché si è consumato l'amore, perché hai fatto qualcosa di veramente spiacevole, quindi ti sei fatto trovare colto in fallo, con il sorcio in bocca, in occasioni non certo proprie per dare forza, vigore e costanza a un amore. Insomma, sono mille le ragioni perché a un certo punto un uomo si trova accannato da una donna. Cosa semplicissima, cosa fa un uomo? Ma fa qualche tentativo, vede un po' che era tira e poi alla fine se ne fa una ragione. Si dispera, piange, sbatte la testa sul muro, si taglia le vene, smette di mangiare, si fa tatuare il nome della donna a lettere cubitali da tutte le parti del corpo, anche le più innominabili, si consuma la vita in donne di malaffare, va a prendere un cargo con bandiera liberiana e se ne va da qualche altra parte. Insomma, non rompe le palle al mondo. Invece c'è una particolare categoria, quella del piagnone amoroso, che in questa circostanza improvvisamente si scopre poeta. Magari per tutta la durata del rapporto, lungo o breve che esso stato sia, si è limitato a qualche grugnito di intermezzo fra una partita guardata in televisione, fra una matriciana mangiata a testa bassa, tra un'ingroppata veloce sudaticcia pensando a qualche figura patinata del suo immaginario onirico e via dicendo. Ha svolto una sorta di afasia perenne, però nel momento dell'accannamento, il momento in cui la smandrappata che faceva parte del suo immaginario amoroso è scomparsa, volatilizzata, probabilmente sta consumando rapporti promiscui con delle squadre di basket o di rugby, si sente improvvisamente poeta e comincia a descrivere, centellinare la sua disperazione, il suo horror vacui, la sua situazione di solitudine, la sua abissale disperazione per l'amore infranto, e comincia a scrivere messaggi. Una volta scriveva lettere, poi andando avanti faceva telefonate, mandava sms, poi vennero i social network. E quindi il piagnone amoroso non trova maniera migliore che cercare complicità. Come una volta l'abbandonato, l'accannato, il cornificato andava a piangere dagli amici, ricordo un meraviglioso film con Lello Arena e Troisi, che Lello Arena lo perseguitava, Peppino si chiamava, e diceva: ma perché, sai, quando mi baciava teneva gli occhi chiusi, era già un segno, già sentiva nell'aria l'odore del pelo perduto. Però in quel momento naturalmente non aveva altra maniera che quella analogica e banale di parlarne al suo amico. Invece no, invece da quando c'è Facebook tutti i piagnoni amorosi naturalmente hanno una sorta di editore spontaneo e gratuito delle loro lamentele e dei loro piagnistei. Giorni fa, scartabellando nei nostri momenti di vuoto creativo, abbiamo trovato la lettera del fedifrago. Un signore che scrive su Facebook la sua melenza e tristanzuola letterina a colei che l'aveva accannato. E vorrei questa mattina sottoporvi in realtà come case history, come documento iniziale, la lettera di questo fedifrago. Cosa dovrete fare voi? Chiamare all'800 24 0024 e aggiungere commenti alla lettera del piagnone amoroso, aggiungere testimonianze di piagnoni amorosi o che avete voi impersonificato in prima istanza o che avete, di cui avete avuto testimonianza, meglio se siete donne, meglio se avete una occasione perfida di denigrare i voli poetici fra virgolette dei piagnoni amorosi che avete incontrato nella vostra lunga carriera di amatrice. Cosa avrete in cambio? Avrete in cambio il libro infame. I nostri armadi stanno straboccando i libri infami, ho la mia scrivania piena, sono pronto a darne decine di libri infami purché il contributo all'800240024 abbia un senso. Iniziamo quindi con la terrificante melenza, tutt'altro che poetica, lamentela del piagnone amoroso che su Facebook ha messo un grande cuore e ha messo questa terribile letterina che gli sarà costata settimane di fatica e di sudore, sperando che qualcuna si impietosisse e dicesse: sì, è vero, mi hai commosso, hai toccato le più profonde e segrete della mia passione, riavrai il pelo perduto. E invece no. Cara Laura, temo di essere diventato per te poco più che un fantasma del passato. Ciò non di meno ti scrivo, anzi, essendo un fantasma, inopinatamente, come tutti i fantasmi, mi materializzo. Ho riflettuto a lungo prima di farlo, combattuto come al solito tra mille scrupoli e incertezze. Poi ho pensato a un pomeriggio di 7 mesi fa. Eravamo in quel baretto dove andavamo di tanto in tanto. Doveva essere il mese di maggio. Ero preso di te allora, come forse non lo sono stato in nessun altro momento della nostra storia. Ti guardavo e mi sentivo un miracolato. Non sta capitando a me, non è possibile, pensavo che una donna così si sia innamorata di me. E ricordo anche che te lo dissi. Cominciamo a fare un'analisi impietosa, però necessaria, al componimento del piagnone amoroso, che in questo momento probabilmente sta ascoltando, perché sadicamente ho postato su Facebook la sua letterina, tutti la stanno guardando. Pensare che da settimane scrivevano ragazze dicendo: ma che donna senza cuore, non capisce, un uomo così lo vorrei subito, o uomini che dicevano: anch'io ci sono passato, come ti capisco. Perché nel piagnisteo amoroso ci si trova subito affratellati, come una sorta di lazzaretto di malati incurabili, inopinatamente. Ma come si fa a scrivere inopinatamente? Cioè, non c'è parola più disattizzante, più disarrapante, più disamorante che inopinatamente. Sembra, non so, facente parte della ringa di un avvocato azzeccacarbugli. Poi il rievocare, cercare di riportare degli elementi di memoria condivisa che soltanto dal suo punto di vista sono momenti unici, momenti inenarrabili, momenti che hanno segnato l'esperienza di questa donna che in questo momento sarà strafogando di guerrieri della notte, di giocatori di sport estremi e via dicendo. Eravamo in quel baretto dove andavamo di tanto in tanto. Sai che poesia andarsene al baretto, fra gli sputacchi catarrosi dei vecchi, fra i camerieri con l'unghia nera che te l'appoggiano nel piattino. Doveva essere il mese di maggio, quindi evoca la primavera e i suoi profumi, questa sorta di inesistente zagara metropolitana. Dice: ti guardavo e mi sentivo un miracolato. Ora, una donna qualsiasi con un minimo di comprendonio, un minimo di orgoglio femminile, un uomo che dice: mi sentivo un miracolato la tua presenza, dice: ma poveraccio, ma va da Santa Rita, va da Sant'Antonio, vai da Santa Genoveffa, ma che vuoi da me? Io sono una dispensatrice di piaceri, di passioni, ma non faccio miracoli. Se sei in una condizione così disperata ad aver bisogno di un miracolo per salvarti, vai in un santuario. Non sta capitando a me, non è possibile, pensando che una donna così sia innamorata di me. Questo riassume e centuplica l'accezione di sfigato di questo essere umano. La donna dice: ma se tu ti sentivi così fortunato e una si innamorasse di te, vuol dire che io in quel momento ero ubriaca, o ero rincoglionita, o avevo qualcosa che non andava sicuramente, perché dovevo io prendermi uno sfigato come te che nella vita mai ha avuto una donna innamorata di lui? Adriano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Sei un piagnone amoroso? No, non sono io il piagnone amoroso, vorrei portare l'esperienza di un mio amico. Piagnone amoroso. Piagnone amoroso. Siamo venuti a conoscenza un paio di amici di questo nostro amico dato piagnone amoroso. In pratica questo sembrerebbe avesse avuto una relazione con un'altra donna. Con un'altra poi... donna rispetto a chi? Rispetto alla moglie? Sì. Perché... Sì, il piagnone amoroso fedifrago adultero è ancora più penoso, perché deve fare il piagnone amoroso ma deve nascondere a una parte della sua vita il suo piagnisteo. Sì, quindi... mentre da una parte nascondeva perché siamo venuti casualmente a conoscenza della Tresca, dall'altra parte lui si è affidato a una specie di blog, una roba del genere, un social network, no, non è Facebook. Sì, ho capito, vabbè, che cerca consenso informatico. Sì, ci sono di questi in internet. E lui scriveva delle esperienze che aveva avuto con questa sua passione, di questa sua donna, tra l'altro da questa sembrerebbe non fosse proprio più ricambiato, che non volesse più saperne niente, e lui continuava: ma come l'amavo, ma quello, ne raccontava di tutti i colori. Allora ci siamo chiesti, io questo mio amico, che abbiamo scoperto questo... Chi fosse mai la donna? No, no, ma no, ma neanche questo, no, anche perché lo reputavamo, come dire, una persona tutta ad un pezzo, integerrimo anche nei sentimenti, nei principi che professava anche tra l'altro. Beh, alla fine... No, ma... No, alla fine ci chiedevamo, ma perché va in un social network a parlare così di questo suo rapporto, mettendolo alla berlina di tutti? Si è data una risposta? No, non siamo stati, sembra quasi un'autocastrazione. No, insomma, perché il Piagnone Amoroso spera di impietosire sempre, gioca l'ultima carta, quella della pietà, si fa vedere disperato, macilento, distrutto, spera sempre che propagare questa icona sofferente di martire dell'amore possa commuovere la donna, non sapendo che la donna che ti fa riassaggiare qualcosa per compassione è come il colpo di grazia che ti dà. Comunque, grazie Adriano, ancora un po' pochino per meritare il libro infame, non voglio inflazionare questo grande privilegio, però siamo sulla strada giusta. 800240024, avanti con il Piagnone Amoroso. Capivo allora e capisco adesso più che mai quello che tu dicevi a proposito di un vero rapporto d'amore. Dicevi che due persone sono fatte l'una per l'altra quando si sentono come due vasi comunicanti. Se è questo il vero rapporto d'amore, allora tu sei l'unica vera storia d'amore della mia vita, la prima ed unica alchimia riuscita dopo una serie di esperimenti falliti. Tutte uguali a se stesse le mie storie prima di te. Prima di conoscerti ero convinto che, almeno per me, tutto fosse destinato a iniziare e finire allo stesso modo in amore. Prima l'attrazione, le schermaglie, i batticuori, poi la scoperta dei corpi, i racconti del passato e il fare le cose insieme e infine l'affermarsi inevitabile e penoso delle abitudini, l'insofferenza reciproca e la separazione. Sempre la stessa rappresentazione, scene galanti nel primo atto, erotiche nel secondo, patetiche nel terzo. Bello che se la canta da solo, la scena è patetica, più patetica di così non potrebbe essere. Allora, la descrizione delle fasi delle passioni. È scontato, le passioni nascono tutte così, nascono per caso, poi ci si piacicchia, poi ci si annusa, poi ci si accavalla e poi dopo l'accavallamento, come sempre succede, sempre accade, normalmente è così, nella regola, ci si accavalla, poi ci si scavalla e poi passa la voglia di accavallarsi, non passa mai a tutti e due assieme, sarebbe bello, sarebbe una sorta di eutanasia felice di un amore, a uno passa prima e l'altro dopo, uno simula, nasconde, fa finta di niente, poi alla fine non ce la fa più, lo dice, guarda, non ne posso più, fammi la gentilezza, prendiamoci un periodo di riflessione. Ecco, quello è il momento in cui uno deve capire che è ora che si stacchi da questo legame. Il Piagnone Amoroso non lo ammette. Il Piagnone Amoroso insiste, diventa quasi uno stalker. Direi che il passo successivo, se il Piagnone Amoroso non trova soddisfazione, non trova elaborazione o non trova un chiodo scacciachiodo sufficiente a toglierlo dall'obiettivo e dal circolo di protezione della sua vittima, diventa uno stalker. Dice, le schermaglie e i batticuori, la scoperta dei corpi, i racconti del passato. Non fa altro che elencare quello che dall'origine dell'umanità ai tempi nostri ha rappresentato le forme esteriori che la natura ci fornisce, anzi la cultura ci fornisce, per far sì che una volta ogni tanto ancora ci ricordiamo di compiere quell'atto così necessario al fatto che rimanga ancora tracce di umanità sul globo terracqueo. Quindi noi siamo un insieme affastellato di rituali, di qualcosa che chiamiamo sentimento, che in realtà sono reazioni biochimiche che finalizzano la nostra ragione di esistere al fatto che ci dobbiamo accoppiare. Ora il Piagnone Amoroso tutto questo lo dimentica, lui pensa che in realtà noi viviamo semplicemente per provare questa sorta di eterno struggimento. Elide, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Lei è una Piagnone Amorosa, ne ha conosciuti? No, no, senta, mi faccia dire subito che io abbraccio questa persona, veramente lo stimo e vorrei dirgli che questi sentimenti magari fossero milioni nel mondo, magari ci fossero. C'è un mondo pieno di Piagnoni Amorosi. Ma che Piagnoni? Questi sono sentimenti veri, scusi. Ma no, ma sta scherzando, scusi. Guardi, mio figlio ha 38 anni, se lo racconto io. Ha sono un figlio mamma Piagnone di un Amoroso. Ragazzo di 38 anni. Ragazzo, è un uomo finito di 38 anni, scusi. No, un ragazzo, un uomo. Un uomo, c'ha quasi 40 anni. C'ha. Prego? C'ha quasi 40 anni suo figlio. Sì, sì, sì, sì, ma 15 anni di matrimonio non si buttano al vento così. Lui ha amato questa donna, che poi senza dire né il perché né il per come E un bel giorno gli ha detto: senti, io prendo la mia roba e me ne vado. E lui di piagnone, ti viene un colpo. Però accade, signora. Non è che piagne, ha cercato di tutto per farla ragionare, per vedere se lei non sbagliava a fare questo passo. E quindi scusi, non voglio gettare sale, tutti siamo passati per grandi delusioni d'amore nella vita. L'amore è reciproco, quando non è più reciproco è giusto che finisca. Io chiamavo amore mio figlio fino all'ultimo momento, ma non è la mano, e poi di botto ci sarà stato sicuramente qualche sintomo, qualche cosa. No, avrà incontrato un altro che l'ha fatta impazzire e si è dimenticata di suo figlio, succede. Non è che l'ha dimenticato, perché poi tra l'altro qualche volta ha tentato pure di chiamarlo, forse voleva anche riconciliarsi, eccetera. Ma uno, guardi, non è così netto. Uno mantiene sempre delle aree di tenerezza in cui vorrebbe comunque mantenere una coda lunga di un rapporto, ma i rapporti sovrappongono, uno non può imporre a un altro la propria presenza, e sì, se non gli va più, non gli va più. Lei ha dato un tema stamattina che non è appropriato, perché... No, il tema è appropriato, può non condividerlo, ma il tema è appropriatissimo. Perché chi viene lasciato, uomo o donna, lei parla degli uomini oggi? Sì, oggi parlo degli uomini. Parli degli uomini, quindi capita caso mio. 15 anni di matrimonio non è uno scherzo, signore mio, eh? Ho capito, ma perché non essere poi 150 agli anni? Se sei stufata, sei stufata. Sei stufata. Allora, in questo caso dovevano esserci dei segnali, doveva parlare. Ecco, il fatto che non ha parlato, che non si è aperta questa benedetta donna... Scusi, ma l'amore arriva fulmineo. L'amore, quando riesce a scacciare un rapporto che probabilmente ha dei problemi, se no non sarebbe stato scacciato, è fulmineo. Uno da un giorno all'altro viene l'idraulico a casa, cambia un rubinetto, si avvinghia con l'idraulico sulla vasca da bagno e dice: ma Dio, mio marito non me ne importa più niente. Ma come lo fa semplice lei? Lo sa, lo fa molto più semplice. Ma accade così, lo dico per esperienza, anche per averlo subito può essere a volte, quindi lo so. Insomma, quest'uomo, adesso io gli dico due parole quello che le è successo a mio figlio. Mi è successo che a 100 metri abitava la madre di lei, è andata a stare con la madre, logicamente c'è un bel ragazzo giovane vicino a lei, e quindi mio figlio, avere sempre con questa faccia vicino contatti eccetera, ha dovuto andare a Napoli. Lui da Roma si è fatto trasferire a Napoli, perché a Montemario, gli dico pure la zona. No, non me la dica, per non Montemario di Roma, questo tutti lo conoscono perché lui è nato lì. Vedere questa ragazza, che poi ha anche un comportamento poco corretto per l'età che ha. Perché che significa poco? Perché è poco corretto, nel senso che va in giro con pantaloni strettissimi, vita bassa, le mutandine che si vedono di fuori. Fa bene, scusi, se è una bella vista. Ma c'ha 36 anni, signore. Ma avercele 36 anni, magari. Questa è una ragazzina. A 36 anni è un'età meravigliosa, uno ha tutto il diritto di far vedere il culo. Sì, che suo figlio per 15 anni l'ha costretta a vestirsi da monaca. No, guarda, mio figlio non l'ha costretta, anzi, guardi, no. Lei è liberissima di fare quello che faceva. E allora lo lasci fare tranquillamente, scusi. Non hanno figli, quindi... meglio ancora, è perfetto, quindi non hanno nemmeno l'angoscia che è oggettiva di un figlio può soffrire. Ma lei non può veramente non può, diciamo, favorire certi comportamenti. Ma non è che li favorisco. Sono lutti, ho capito, propri. Ho capito, ma anche quando muore qualcuno è un lutto, uno mica se lo può prendere con nessuno, fa parte... Ma questa non è morta, questa è viva e vegeta. Ma per fortuna, ma scusi, ma sì. Cosa doveva fare questa ragazza? Continuare a stare con suo figlio che magari non gli andava più? Lo so, però guardi, il fatto è che lei... Qual è la colpa di questa ragazza? Si è dovuto mio figlio allontanare perché continuamente aveva contatti fisici e visivi con questa ragazza. Per me è un problema di suo figlio, mica è un problema della ragazza, scusi. Guardi, io devo lasciare la linea alle informazioni della borsa che stanno impellendo. A me dispiace per suo figlio, ho tutta la partecipazione, ma il fatto che la madre prenda così, in maniera così veemente, le parti del figlio mi fa capire che il problema era proprio lei, probabilmente, signora. Era stufa questa ragazza averci una madre che era così ingerente nelle loro cose d'amore. Lasci in pace suo figlio, lasci in pace la ragazza con il culo di fuori, la lasci divertire e speri che suo figlio a Napoli si possa consolare. A tra un istante. Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Non mi rimane che chiederti perdono. Ricordi quello che ti dicevo all'inizio della nostra storia? Ti dicevo che tutti gli esseri umani sono irrimediabilmente noiosi e che la durata di una storia d'amore dipende anche dalla ricchezza del loro repertorio. Anche con te forse il mio repertorio si era ormai logorato, ma la voglia di stare insieme mi sembra... è rimasta intatta. La somiglianza tra i nostri caratteri, gli interessi in comune, il fatto di divertirci e annoiarci per le stesse cose. Non so quale di queste circostanze ha influito di più o se hanno contribuito un po' tutte. Il fatto certo è che la nostra storia si è conclusa, lo so, non per il logorarsi della nostra attrazione reciproca, ma per il banale sopraggiungere di un fatto esterno. Non è grottesco tutto questo. Non c'è proprio rimedio. Non riesci proprio a dimenticare quel mio piccolo errore. Ripensaci, Lorenzo. Non mi rimane. Questo è il piagnone amoroso che, in coda alla sua letterina, spiega anche perché è stato accannato, è stato beccato in una situazione impropria probabilmente. Ma è bello che è convinto che in realtà l'altra stia lì a spasimare di passione e desiderio per lui, capito? E si capisce in realtà, leggendo in sottotraccia questo melenso messaggio affidato alla rete, ricordo, commentatissimo da settimane su Facebook, è diventato quasi un cult per la rete, che in realtà era un segapalle allucinante, un uomo di una noia bestiale, uno convinto di essere irresistibile, di essere un grande amatore, di avere scarnificato profondamente i sensi di questa donna, tanto che lei sta lì, se la immagina, è messa a pelle di pantera ad aspettare che soltanto lui dia un segno perché lei possa ributtarsi generosamente a gratificarlo con la sua presenza. Ma secondo me non è esattamente così, e vi farò sentire anche tra un istante la risposta della donna, che poi lei o una pseudo lei o qualcuno per lei gli ha risposto. E c'è senz'altro un seguito. Ricordo che oggi, telefonando all'800240024, la mamma suocera del piagnone amoroso mi ha fatto perdere un po' di tempo, darò dei libri infami. Sono pieno di libri infami ancora qui, intonsi, pronti per gratificarvi. Sentiamo Dino. Dino, buongiorno. Buongiorno. Piagnone amoroso? No, assolutamente. Anzi, io sono proprio contro a questo tipo di persone, in effetti, perché secondo me quando finisce un amore è come una candela che si è consumata. Insomma, però posso dire una cosa, da uomo a uomo, viva la faccia, e speriamo che siano sempre di più piagnoni amorosi. Più piagnoni amorosi ci sono in giro e più, diciamo, rimane intonso il territorio di caccia. Il piagnone amoroso è come il bromuro per le donne, quindi io spero ce ne siano tantissimi, sia il mondo pieno di piagnoni amorosi, quindi sono le donne vomitate da un'infinità di uomini. Sì, voglio dire, però fare il piagnone alla fine è fine a se stesso, perché cioè, se è finito l'amore è finito, basta, non c'è solo da rassegnarsi, da farsene Ma sentito la mamma prima, no? Lei deve dare una spiegazione, come se l'amore dovesse dare spiegazioni, come se la passione fosse razionalmente ascrivibile in un discorso, fine, finita, basta. Ma io direi anche di più, cioè anche nel momento in cui è l'uomo a lasciare, e io mi sono trovato in questa condizione, comunque non ti fa piacere poi sapere, magari dopo un po' di tempo che ti sei lasciato, che la tua donna sta con un altro, anche se diciamo la mancanza di amore è stata da parte tua, insomma. Sì, l'uomo vorrebbe sempre lo sterminio totale di ogni ex amore, questo no, è vero. È come se l'uomo si acquistasse una proprietà, insomma. Sì, è una piccola debolezza adolescenziale. Poi lei quanti anni ha? Io 46. Ancora è giovane, vedrai che dopo un po' gliene importerà più niente. L'importante è avere l'attimo a propria disposizione, il prima e il dopo diventa indifferente. Comunque penso che, insomma, basta, quando è finito l'amore bisogna farsi. Ma lei doveva solo ribadire questa cosa qua, che lei è contro il piagnone amoroso. Sì, esatto. Va bene. E comunque volevo dire che comunque sapere che l'altra donna, anche quando nel momento in cui l'ha lasciato tu, sta con un altro, comunque... lo so, sarebbe meglio sapere che c'è passato sopra un rullo compressore e di lei rimane soltanto un impercettibile velo ex che rappresentava un essere umano, però ahimè la vita non ci dà sempre queste soddisfazioni. Ines. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io dicevo, sono stata con un piagnone amoroso, mi ci è voluto un annetto lasciarlo, perché sempre lì con questi occhi come per dire non mi lasciare, è stato proprio non che lo lasciassi ogni secondo, però... Quante volte l'ha lasciato il piagnone? Saranno state 3 senza uscire di casa e parlando eccetera, dicendo... E perché poi ci si rimetteva insieme? No, perché c'aveva questo modo di mettersi come per dire non è colpa mia che non mi vuoi più bene, eccetera, eccetera. Scusi, ma se lei non voleva più bene al piagnone, perché poi riconcedeva l'innominabile oggetto così? Perché gli faceva pena? Come mai? Sì. Ah, gliela ridava per pena così e poi dopo... Beh, però non si fa così. Lo so. Rendeva ancora più doloroso. Rendeva anche un altro senso. Lui pensava che le cose erano ritornate come prima, ma... Invece no, lei sa no, com'è. Non aveva capito il discorso, purtroppo. Che sì, uno può anche simulare una volta, due, tre, ridare il contentino. Basta, ma... Sì, sì, no, dopo di che le cose sono state proprio dopo un mese, insomma. E a lei adesso come si comporta? No, l'ho lasciato... Perché ho detto, quando esco di casa non torno più, quindi mi ci è voluto un po' anche a me di avere il coraggio di non guardarlo più con questo e con viso. Quegli occhioni pieni di con lacrime, sì, quello sguardo macilento, con questa voce tremula il giorno dopo quando lo vedevo, capito? Perché l'hai fatto? Perché? Insomma, e adesso lei cosa fa? Si concede... Mi sono sentita in colpa tutto quel tempo e anche ora, perché... Ancora si sente in colpa? Sì, è poverino. Ma poverino un piffero, no, scusi, ma che gliene importa lei ormai? Mi faccia capire. Ha ragione. Come lei ha bisogno di aiuto, signora, lei ha bisogno di aiuto. Guarda. Devo dare quello che posso di aiuto alla sua situazione, ma non tanto per risolvere il problema del piagnone amoroso, per risolvere il suo, questo filo indissolubile di catene di schifosa pietà che ancora le ispira al piagnone amoroso va spezzato. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Sarà l'orgoglio della tua biblioteca! Alla cara ascoltatrice Ines, vittima plurima di un piagnone amoroso che ancora non si è riuscita a distaccare dalla terribile malattia che quest'uomo le ha attaccato, do il libro infame di Giovanni Siena, Il mio amico Padre Pio, diario di 30 anni vissuti accanto al santo di Petralcina. Vedrà che le sarà molto utile, Ines. È contenta? Sono contentissima. Bene, spero di averla fatta felice questa mattina. Caro Lorenzo, la tua lettera mi ha colto un po' in contropiede. Tu parli di te stesso descrivendoti come un fantasma del passato che si materializza all'improvviso. Io, nel ricevere la tua lettera, ho pensato invece ad una pratica chiusa da tempo. Sai di quelle che hai portato in archivio perché sono ormai abbastanza vecchie da poter riposare più o meno serenamente in una cripta sotterranea? Adesso mi toccherà scendere nella cripta, riaprire il faldone della pratica, inserirci quest'ultima tua missiva, come sai mi piace tenere tutto in ordine, e richiuderlo, restando incerta se lasciare la pratica in archivio o riportarla in studio. Grande, stupenda, granitica, sadica, infame, la vittima del piagnone amoroso. Questa è la donna che ha risposto. Ora lui che si è sdilinquito i ricordi del baretto, in passioni, in corpi che si aggrovigliano, in sentimentalismi, era una pratica, l'aveva già archiviato, lo considerava poco meno che una bolletta della luce pagata. E adesso gli tocca andare giù, riaprire il faldone polveroso e infilarci dentro, ma per il gusto macabro dell'archivista, mica perché gli dà un valore. Dice, vabbè, è aggiunta questa cosa qui, c'è questa ultima ingiunzione, mettiamola dentro. Ma vediamo ancora come va avanti la vittima del piagnone amoroso rispetto a questa persona che oggi abbiamo glorificato dandogli esistenza. Ho pubblicato la tua lettera nel mio blog, senza commenti. Volevo capire l'effetto che poteva fare a chi la leggesse senza conoscere noi e la nostra storia. Pareri contrapposti, per lo più di donne. Alcune ti considerano un furbacchione che cerca di minimizzare quello che ha fatto. C'è addirittura chi ti definisce un viscidone. Altre mi incoraggiano a tornare con te, ma al solo scopo di adornare la tua testa con una selva di corna. Poi ci sono quelle che si sono fatte incantare dalle tue parole e mi invitano a passarci sopra. È importante, forse anche terapeutico per il piagnone amoroso, rendere pubbliche, glorificare queste parole di risposta, anche perché lui, che era convinto di essersi creato un network e quindi uno strumento di potere, quindi un consenso, come se svolgesse una battaglia politica. Lui voleva vincere appunto la sua battaglia semplicemente riportando parte del mondo, che poi sono i miseri amichetti del profilo Facebook, alla sua causa. E infatti molte altre signorine hanno scritto a questa ragazza: ma ritorna con lui, ma perdonalo, ma un uomo così, avercelo. Altri hanno dato quello che sono i giusti consigli che si danno in queste occasioni. Ma lascialo perdere, lo vedi che piagnone, che schifoso che è, ma che ci fai con un uomo del genere? O addirittura chi? Ma questa è una maniera un po' coatta, è autolesionista, rivettici insieme e poi farlo schiantare di corda, ma non c'ha senso. Quando un amore finisce bisogna avere una grande passione, un grande senso di tenerezza per l'amore finito, metterlo lì se volete in una sorta di teca di cristallo e metterci ogni giorno dei fiori davanti, se volete, ma non bisogna rompere le scatole, al prossimo. Andiamo avanti con Francesco. Francesco, buongiorno. Salve, intanto complimenti per la trasmissione. Lei è un piagnone amoroso? Vado al punto. No, adesso ti spiego. Praticamente mi è successo qualche anno fa di essere lasciato dalla ragazza e praticamente ho cominciato a fare il falso piagnone amoroso, ma con altre ragazze. Così mi è capitato di uscire. Ah beh, sì, era una paraculata. Lei si faceva commiserare da altre ragazze, delle infermiere però... cercava. Esatto, però ha funzionato. Ci credo, detto, uno allarga questo, il proprio serraglio di esperienza in questa maniera. Con questo ho detto mi guadagno il libro infame, perché sono stato abbastanza infame. No, solamente, questa cosa va, di solito le autoproclamazioni non le apprezzo. Poi devo dire che sì, dà una bella soluzione al piagnone. Il piagnone amoroso viene giustificato quando diventa una strategia. Io uso, massimalizzo l'investimento che posso fare sulla mia disgrazia andando a piangere in giro. Il mondo è pieno di ragazze che non vedono l'ora, tipo la mamma del piagnone amoroso, di consolare un rimasuglio amoroso di un'altra donna. E se lo raccattano, gli fanno qualche tenerezza, gli danno qualche contentino, gli danno una spalmatina di piacere e via dicendo. Quindi il piagnone amoroso quindi ha ottenuto in fondo quello che può essere il lenimento al suo dolore. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Colmerai il vuoto dei tuoi scaffali! Allora, all'ascoltatore che così lucidamente ha dato una via di svolta, una soluzione di vitalità ad ogni piagnone amoroso, diamo il libro di Maya Beauvallet, Le strategie assurde, come fare peggio credendo di fare meglio. Garzanti, se l'hai meritato veramente, grazie. Grazie mille. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. La fantastica Margherita mi scrive su Facebook. Sai cos'è sta roba, la roba più insopportabile del piagnone amoroso? Lo sguardo. Quello di un animaletto sofferente. Sai quando il veterinario ti dice soffre troppo, dobbiamo aiutarlo ad andarsene? Ecco perché i piagnoni non esiste qualcosa del genere. Ecco, ci vorrebbe un veterinario per piagnoni amorosi che dice guardi, con la siringa, con il Tanax pronto in mano, sta soffrendo troppo, aiutiamolo ad andarsene nelle verdi praterie dei cagnolini, ma in realtà nei verdi prati dei piagnoni amorosi. Poi mi scrive Claudia, non ho il messaggio sott'occhio, ma me lo ricordo, di un terrificante piagnone amoroso che andava dalla madre della donna per cui spasimava portando grandi fiori e andando a piangere dalla madre. Il piagnone amoroso cerca sempre degli appoggi familiari, i fratelli, le sorelle, le madri, i cognati, le nonne, le zie, l'amica del cuore, l'amico del cuore e via dicendo. Allora sentiamo Silvano. Silvano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì, lei è un piagnone amoroso? Sì, sì, sì, ecco, sì, assolutamente. Assolutamente sì, perché io ormai, vabbè, adesso ho 52 anni, non ormai, ma ce li ho. Io parlo di 15 anni fa. Dove, ha fatto il piagnone amoroso? Acipicchia. Guarda che l'ho fatto anch'io da ragazzo. Quello che ha scritto quella lì, come? L'ho fatto anch'io da ragazzo, tutti l'abbiamo fatto. Non è che prendo le distanze da qualcosa che non conosco. Ho fatto il super piagnone amoroso, figuriamoci. Appunto, per quello mi sembrava un dilettante quello che ha scritto la lettera, perché ho scritto lettere io che alla destinataria è venuta dal diabete, insomma. Perché sì, da quanto era zuccherosa. Sì, facciamo schifo addirittura. Però devo dire, il piagnone amoroso compie una grande opera di salvezza per la sua vittima, perché se mai ci fosse un recondito desiderio, un inconfessabile senso di nostalgia, la uccide totalmente. Di fronte al piagnone amoroso ogni speranza tracolla definitivamente. Infatti il mio tracollo non ha fatto altro che portare tutti i miei amici a ogni sera organizzarmi una cena con una donna nuova che però tra l'altro non ho trovato, insomma. Quindi a 15 anni lei se ne sta bocca asciutta? No, questo parlo di 15 anni fa, ne avevo 35. Quindi adesso ha capito che non si fa così? Adesso assolutamente, adesso con una donna fantastica, che tra l'altro è stata quella che è successa dopo alla mia, insomma, a questa che avevo fatto. Quindi è monogamo da 15 anni? Ho fatto lode No, si parla del 95, avevo 35 Ma se questa donna l'accannasse, lei che farebbe? No. No, non si sa mai. No, non c'è mai certezza. No. E vede, lei è troppo sicuro, no, però. Se non rischia. Sono d'accordo che, insomma, voglio dire, insomma, 15 anni e poi è passato in prescrizione. Basta. Ma guardi, non lasci perdere. Non hai mai detto. Comunque, bocca al lupo. Antonio. No. Buongiorno. Antonio, anche lei è un piagnone amoroso? Sì, contemporaneo. Benissimo, abbiamo finalmente tirato fuori i residui di questo genere. Lei come si comporta allora? Niente, io vivo una relazione, faccio una premessa, vivo una relazione un po' complicata dove ci sono stati una quindicina di addii e una quindicina di ritorni. Ma che gusto dà? Da un gusto, da una sofferenza enorme, e per riprenderla talvolta faccio il piagnone, talvolta no. Il problema è che con lei magari non sono un piagnone perenne, ma con 3-4 amici sono effettivamente un rompiscatole esagerato nell'ultimo periodo. Perché... Vabbè, se questo la diverte, devo dire, una forma di sopravvivenza passionale, se le piace questa sorta di ripresina continua, giochi sulla ripresina, ognuno ha le sue maniere per essere felice. Marco. Pronto, buongiorno. Anche lei è un piagnone amoroso? Sì, diciamo sono stato uno dei peggiori piagnoni amorosi. Quindi una categoria vedo che è ancora molto ben frequentata. Sì. Vabbè, primo perché insomma prima criticavo insomma chi era un piagnone amoroso, dopo quando sono capitato io non sono riuscito a evitarlo. Io volevo dire una cosa, la tentazione di essere piagnoni amorosi prende tutti, prende anche gli uomini senza cuore, è chiaro, ma la capacità di dimostrare la propria crescita passionale è starsene zitti, non rompere le scatole, piangere in silenzio semmai. È difficile perché appunto uno perde proprio il lume della ragione, io addirittura ho cercato di diventare un suo amico, insomma, facendomi anche raccontare insomma le sue uscite con l'uomo. Ecco, che aveva... questo è un atto di masochismo, questo mi interessa, che il piagnone amoroso millanta alla fine una sorta di superiorità dei sensi. Cioè, sì, siamo amici, raccontami cosa hai fatto. Sì, che bello, sono contento di esserti amica. Dunque, ieri sono uscita con 6 lottatori di sumo e ti posso raccontare, è stata una bella notte. Sì, dimmi nei particolari, così? Sì, è stato proprio così, addirittura perché appunto lei mi ha lasciato appunto per un'altra persona, il suo ex. E quindi appunto io cercavo di avere proprio i dettagli della loro relazione per cercare magari anche di in qualche modo inserirmi e cercare appunto di imitare addirittura i suoi atteggiamenti. Sì, ma per lei non ce n'era più, non è questo poi le provocava un lascito di una manciata di pelo di passione, niente? No, assolutamente niente, anzi era peggio, insomma sapere dei dettagli era ancora più gravoso e sofferente, insomma. L'unico vantaggio è che piangendo in giro, insomma, sono riuscito, diciamo, a impietosire qualche altra donna. Quindi vabbè, un mendicante di passione. Sì. Comunque, siccome lei mi fa tenerezza, siamo vicini alla fine della trasmissione, resti un attimo in ascolto. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Hai qualcosa da lanciare nelle liti domestiche. Allora, al nostro caro piagnone amoroso, anche masochista, sì, che peggiora la sua situazione facendosi raccontare particolari penetrativi molto intimi dalla sua ex fidanzata, soffrendoci come un cane, ma poi andandolo a raccontare agli amici, regaliamo il libro di Pupi Avati, Gli amici del bar Margherita, che le sarà molto utile per selezionare gli amici. Grazie, arrivederci. Ti dico la verità, un mese fa questa lettera mi avrebbe colpita e affondata. Ho passato un periodo bruttissimo. Mai avrei pensato che tu potessi tradirmi. Avevo in te una fiducia totale. Ti consideravo una specie di San Domenico Savio. Sarei rimasta malissimo anche solo a saperti navigatore di un sito pornografico. Figurati se mi sarebbe stato possibile anche solo concepire una tua avventura con quella sciacquetta tutta cosce e tette. Il culo però era piatto come un tagliere. Te ne sei accorto? O il soprassalto ormonale ti aveva proprio accecato. Eppure, ciò nonostante, ripeto, avessi ricevuto quella tua lettera solo un mese fa, mi sarei messa a piangere dalla felicità e ti avrei detto «riproviamoci». Oggi ti dico «dammi tempo». Quel giovane che ho incontrato in palestra 3 settimane fa mi ha fatto capire tante cose. Adesso che so per esperienza diretta cos'è un soprassalto ormonale, mi sento più propensa a perdonarti. Ma senza fretta. Ti dispiace se ne riparliamo tra 6 settimane e mezza? Laura. se l'è voluta al piagnone amoroso e finalmente ha porto il fianco per questa ultima stoccata. Non credo che le cose siano realmente così, perché ho capito che questo era un fantomatico incrocio tra un chierichetto viscerale e una figa di legno, che poi alla fine è venuto fuori questa sorta di terrificante cocktail. Giovanna. Buongiorno. Piagnone amorosa. Piagnone amorosa? Sì, la voce ce l'ha un po' da piagnisteo. Sì. Sì, un pochino, sì, mi spiace. Beh, racconti allora l'altro lato della medaglia, la donna piagnone amorosa, che però fa meno orrore dell'uomo, perché la donna è sempre un po' piagnona, anche quando è vincitrice, quindi è bella questa storia. Non proprio così, però vabbè, io sono stata lasciata 2 mesi e 11 giorni fa dal mio compagno. Ah, sta lì col cronometro, il calendario a contare secondo per secondo. Purtroppo sì. Purtroppo sì. E niente, eravamo abbassati sul divano, non c'era stato nessuno, come dire, spunto, discussione, cosa valga perché giustificasse questo suo andarsene di casa. Ha preso i vestiti, si è alzato dal divano, ha preso i vestiti e è andato via. E ma cosa era accaduto? Niente. Non è mai niente, scusa. No, sì. Sentiva qualcosa, un odore addosso diverso a quest'uomo? Lo vedeva un po' ringalluzzito? Assolutamente no, perché purtroppo eravamo 24 ore su 24 appiccicati. Vabbè, quello è il problema, signora. L'aveva assatanato 24 ore su 24. Guardi, proprio in conclusione, mancano 10 secondi. Se lo prende. Complimenti! Hai vinto un libro infame. Sarà l'orgoglio della tua biblioteca. Alla nostra soffocante amica che sperava di tenersi un uomo vicino standogli addosso 24 ore su 24 regaliamo di Anna Maria Rivera La bella, la bestia e l'uomo. Sessismo e razzismo senza escludere lo specismo. Non so cosa significhi, ma le sarà senz'altro utile. Grazie, arrivederci, grazie a Alessandro Chiappini e a Fabrizio Intonti, grazie a tutti i piagnoni amoroso e grazie a tutte quelle che hanno provocato tali pianti. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.